preso. Registrata. Ehi, ehi Fabio, avanti Black. Trappa, buonasera a tutti. Chi c'è che sta parlando? Io non lo sento. Fabio Master. Comunque sei in compagnia mia, di Angelino, Fabio, Riccardino, Claudio e Marcolino Condor. Pomponio c'era anche, avanti Massimiliano. Aspetta il telefono. Ok, dai, riprendo e saluto tutta la ruota, là. Così non mi dimentico nessuno. Vai Angelino, sei più lontano, dai, se mi ascolti. Tuo segnale 8 qua, radio 5, ma si vediamo da questa. Venga, vaga, vaga, avanti di qua. Non è prudente tenere roba attaccata in serie, non lo sai, se vuoi te l'attacco mi ti faccio la differenza, Claudio. Qua tre, poi col vento che ne so, magari l'antenna come oscilla rende meglio, rende meno bene, qualche radiale tocca non toccami. Tanto i radiali hanno quella piastra che li tiene fermi. Sarà ossidata, c'è da 6 anni mi quell'antenna, lo sai l'Energy, io ero convinto fosse da 3 anni, invece sono già 6 anni, ciao Massimiliano, riprendi. No, qui c'è sempre il solito segnale, là. C'è sempre il solito segnale, 9-5, il tuo segnale, contro il VAT, va bene, va. Prova a attaccarlo, ma per quanto arrivi da cosa, no vabbè, con Luca siete attaccati, no? Non c'è niente, però non passi neanche da Luca, non capisce niente, ma non passi. No, voglio vedere quanto arrivi attaccato da Massimiliano, prova. Ehi, aspetta, devo pigliare il cavetto, devo pigliare l'apparecchietto e devo collegare tutto, dai, abbiate pazienza. Nel frattempo ti mando, Claudio, ti faccio vedere qual è il tuo segnale consueto. E poi è sempre quello il tuo segnale, anche col baracchino, cioè più di tanto, smitter non va, mi lascia te lo mando. Con chi? Perché sono tutti e due vicini, capito? Quindi è chiaro che hanno lo stesso segnale da te. Cos'hai detto Fabio? Vabbè. Ma io devo là, poco fa vi ho seguito un po'. Ma non erano gli stessi watt della radio, eh. Cioè quel baracchinetto da 5 watt e arrivi 9,5 tu qua. Con quel baracchinetto quando agganci va quasi a 25. Quindi non si possono fare queste prove così. No, vabbè, poco fa sì, l'ho agganciato quando loro erano FM, però io ero una M, loro erano FM, io non ce l'ho l'FM lì. Per dire di passare una M, capito? Sì, poco fa l'ho agganciato. Anch'io l'ho sganciato dopo. No, ma quando stavate facendo le prove, là, Marco e tu avesse passato, tu eri agganciato e Marco era sganciato, capito? Ero agganciato io. Beh, 9,25 qua, non lo so, guido. Se vai con 5 watt di radio, Marco da lì ti schiaccia completamente, a casa di Luca. Ah, a casa di Luca, ma non da te, no? No, a casa... Sì, un attimino, Riccardi, ti faccio riprendere subito. No, a casa di Luca sto parlando. Casa di Guido era con 3 watt e tu eri con 7 watt. Io ti grido che non si capiva niente. Non passava né uno né l'altro, però se tu sganci e ti metti con 4 watt e Marco con 3 watt, a casa di Luca Marco ti schiaccia. Sì, no, non me ne sono accorto, ce l'ho dietro, ce l'ho, cazzo, io non sento manco il relè. Pensavo che l'ho sganciato. Non stavo neanche guardando il wattmetro. Vabbè, no, ma è normale, cazzo, si sono attaccati è chiaro, per Marco qua c'è il segnale più alto di tutti. Anche qua arriva quanto è Luca, arrivano tutte e due uguali. Come arrivano ad Alghero, perché sono praticamente nella stessa posizione. Va bene, va bene. Avanti Riccardo, cosa stavi dicendo? Bellissima, bellissima, guarda, l'ho girata anche a Claudio per fargliela vedere. Claudio, guarda cos'è arrivato Riccardo. È bella veramente, eh? Complimenti. E cos'è? 40 canali? O ne ha qualcuno in più? No, vabbè, quelli sono le bande, non c'entrano quelli lì. Va bene, bella radio comunque, caspita, guarda, nuova, nuova, bella. Butta io, questo è il cold break. Sì, sì, sì, è una radio americana, non c'è l'FM, peccato. Bella, lì li agganci un bel Turner, che fra un po' ti arriverà anche quello, e si a cavallo, così è. Più bella l'altra però. Quale altro? Più bella l'altra, Riccardi. Allo grippo. Conosco. Allo grippo. È bella, bella. Sì, non è proprio adatta a roba. L'altra che c'ha. Girale l'altra. La prima che hai preso, come si chiama? No, non lo creppi, ti sento sotto, ma non lo creppi. Allo grebbo, ecco qua, questo è il segnale con e col filtro, ovviamente il filtro lo metto sotto, però mi ruba 10 watt il filtro, vedi un po' Claudio. Ma domanda, scusa Claudio, domanda, ma cosa te ne va di questo filtro? Fammi comprendere. È per eliminare l'eventuale DVI, eventuale, cioè io lo metto per sicurezza mia, per eccesso di scrupolo. Ma cosa DVI? Ma come fai a fare DVI con l'analogico così? È solo digitale terrestre, ormai non ne fai più DVI. Vabbè, comunque là. Comunque non lo creepy a Claudio, ti sento sotto ma non lo creepy. E lui c'ha 70, quanti watt da quello? 70 watt, io ne ho 20 col 440. Aspetta che commuto, che ho 70 watt anche io, lo metto 70 watt nel baracchino a vedere Marco, aspetta che commuto. Dimmi. Strano, eh? Il Massimiliano sai cos'è? Cioè, il decoder... e spuri e gravi disturbi, però può dipendere da chi ha l'antenna messa male. L'esempio l'abbiamo fatto tante volte, no? Già lo sai, no? Lui aveva le emissioni a norma, no? E disturba il vicinato, ma il vicinato ha le antenne TV gravemente compromesse, c'hanno impianti TV messi molto molto male, ecco perché si può disturbare, capito? Comunque da me non disturbo, ho provato in tutti i modi, in tutti i canali o con niente, non c'è modo di disturbare il mio impianto TV. Perché? Perché è nuovo e perché è fatto bene. Ehi, qua ci ho messo tutta la buona volontà, tolto il filtro, niente, da me non disturbo. In due antenne, una messa su, una messa giù, non c'è modo di fare TVI. Perché? Perché l'impianto è fatto bene. Vai Massimiliano. Ehi, allora, Cla, avete lo stesso segnale, capito? Vi sento tutte e due parlare nello stesso, perché arrivate tutte e due 9:25. Grazie di essere. Dice ma hanno gatto da un chilo, ma te casa ti scebbe deggio. Dai, non è fare una malattia, tanto lo sai che io non ne uso. Cioè a me questo mi serve esclusivamente. È inutile averlo anche. Propagazione, ce ne doveva essere già un Bemmi come gli altri anni, invece nulla. Ha fatto un giorno di propagazione strepitosa e poi più niente. Sì, ti ho copiato. visto un altro gatto, questa antenna di base che è su, questo linea retto di un gatto, allucinante. Oh, Massimiliano. E io. Allora, io dico che se Marco lì ci mette 200 watt, non viene più nessuno a Sassari. Cioè, tu pensa, con 50 watt mi arriva 9,25 qua. Metto un centinaio di watt e si gribba tutti quanti. Se la faccio come, se boh, a me cosa, un centinaio di watt, fa bravo. Ma io non è me, figurati. Per me non, ho letto, io in città tre volte vanno più che bene. No, volevo dire a Massimiliano, allora io sai cosa vede l'antenna otticamente? Vede Sentino e vede fino alla zona industriale Porto Torres, però già da Porto Torres in poi c'è tutta la zona di Via Gorizia che mi copre tutto, io ho la zona tua completamente coperta dai palazzi. Invece Alghero... 100 watt, ma cosa 100 watt, cazzo 100 watt, è fila. Santa dal terrazzo, dovrei averlo ancora, Massimiliano. E anche la Massimiliano adesso non passa più lui, cosa sta dicendo? Ho messo al massimo, non passa più. Ma io ho staccato pure me. Ma puoi attaccare anche, così non passi più. Vai Claudio, vai. Vai. Guarda, 10, 20. Guarda, non sono mai. Allora, quando parlate non si capisce niente, né uno e né l'altro. Parità a Sassari, dai. No, non sia a Sassari, sia lì punti, cazzo, mi si girano le balle quel cazzo di antenna di merda che c'hai. Ah, ma conta che io ho 50 metri di cavo, mi guarda che da perdita, mi nonostante sia il 213. Comunque adesso ne buco tutto perché a me il watt non ne uso, in città non servono, dai. Ma Claudio, se avete no problemi, mica dobbiamo fare le gare come una volta a chi aveva più kilowatt, come negli anni 80, no? Almeno a me basta che mi sentiate a Sassari e dintorni, e sono liscio adesso. Attenzione, binario 45esimo, KK. Vabbè, dentro Sassari questa prova non si possono fare. Con tu Massimiliano è aperto anche per te via quella via e quello spazio lì, perché all'angolo con via le Mamilie ti vede a te, poi dagli altri parti non va più da nessuna parte, assolutamente, né per Sorso né per da nessuna parte, neanche per Porto Torres, perché è chiuso lì, non sei molto aperto tu come me. Ma c'ha questi spazi, cazzo, è il segnale più alto che mi arriva di tutti, di tutti, cioè quelli della parte bassa. Gianni quando attacca non arriva quanto lui, arriva a me liscio, fatti il conto. Ma Gianni è agli antipodi, Gianni è dalla parte opposta della città rispetto a te. Io vi vedo tutti, non è un problema per me, capito? Io vi vedo tutti, assolutamente. Il segnale buono, alto, più o meno come il tuo, ce l'ha Torre Squadra, Torre arriva fortissimo, con quell'antenna autocostruita. Però gli altri, per arrivare al tuo segnale, arrivano quando attaccano, capito? Ad esempio tu adesso qua sei 9 più 30 liscio, quando attacchi sei 9,40. Massimiliano quando attacca l'amplificatore grande mi arriva 9 più 30 come tu mi arrivi liscio dai punti, attenzione. Tutti gli altri, non ci arriva nessuno 9 più 30 liscio qua. Comunque ho ripristinato tutto, ho tolto tutto, adesso sono filtro e antenna. Tu? No, io sono 4,40, 10 watt modulati in 20. Qui. Ma tu pensi che guarda quanto aumenta quel affarino? Cazzo, adesso sganciato è 9,5 e quando aggancia fa 9,25, quindi guarda quanto aumenta. Cazzo, il mio è uguale, me l'hai detto tu, 9,5 liscio, 9,25 agganciato. Sono linee rette del cazzo, Massimiliano, che però vanno bene. Non hanno questa grande cosa con i baracchini, se lo attacchi a una radio grande non si via nulla. Gatta. Riccardi, mandami l'altra che c'hai, che sono curioso di vederla, che poi ti mando io una io, dai. Avanti, Lugarie, Gallo. Cavalcava, Bulldog. Come c'è un po' di propaganda 45, c'era anche Civas. Sì, vabbè, chi c'è Civas, non è propagazione, non è dai loghi. Sì, no, lo so che Civas è qua, lo so, ma dico, c'era anche lui nel 45, se era in zona. Sta andando al 45? No, ecco, se non ce n'è io non lo sento, boh. No, Cla. E se c'è dopo già mi sposto e provo a cacciare. No, io un po' negativo sono per Alghero, là. Allora, faccio, allora, un watt e mezzo e una trentina monowatti. Come sono lì ad Alghero? E se faccio così invece quanto aumenta? Molto? Da 7 a 9, già va bene allora. Così si è agganciato, ma si vede. Sì, va in terza marcia. Stai arrivando a 9 più 30 così. È lo stesso segnale di quando Marco è sganciato con 3 watt. Gala, gala. E ho provato ancora l'altro, Claudio, ancora dentro la scatola come me l'ha mandato. Ma io per Alghero sono negativo, capito? Non è molto buona la mia zona per Alghero. Io sono più per zona dall'altra parte, là. Lunedì senza autocertificazione si può andare a tutte le parti, sì. E ora? Perché da amici? A tutte le parti senza autocertificazione, mi ha messo adesso la notizia che c'è un gabbo di Bonietta di Gonte. E da ora? E da ora? Aspetta, c'è Riccardo, dimmi Riccardo. Ok. Grazie, da ora era che ci liberassero finalmente. Claudio, me lo puoi mandare una foto, se ti viene bene, dello smitter tuo, per capire, oppure no, fregatene, comunque l'hai vista la tua, sì, quello è il tuo segnale, però lo smitter di più non va, anche se vieni sotto casa. No, te la faccio col 440, aspetta, te lo dico io quando, aspetta, si vede un cazzo qua, aspetta. Ho visto, Marco. Allora, credo che Claudio sia a portata ottica, cioè all'inizio del video si vedono i palazzi in lontananza, alti, proprio all'orizzonte. Presumo che siano quelli di Carbonazzi, ma non sono sicuro. Poi però, io vedo, l'antenna vede Stentino, vede la zona industriale, però poi c'è tutta quella zona alta che mi copre, probabilmente anche la tua zona, e tutto il continente italiano, io ce l'ho coperto. Purtroppo c'ho gli spagnoli a vista, c'è la zona di Alghero, l'hai vista, no? Con i monti all'orizzonte. Avrei preferito avere il continente italiano a vista e gli spagnoli coperti, cioè degli spagnoli a me. Non te ne sbatte niente, hai capito? Non gliene sbatte niente a questo abusivo pirata che non è altro. Ehi, te l'ho mandata Marco, ciao Natalia, buonasera. No, lo so, io però c'è molto più apertura. C'ho solo la chiusura verso sorso, diciamo. Ma perché c'ho, arrivo Nove, non è che non me ne fotti nulla. Arrivo a Santiago Nove, quindi va bene. Però dico, mi copre la montagnetta lì di Filighedo Alta, il Monte Bianchino, quella zona lì, capito? E infatti io arrivavo forte in gallura. Vabbè, comunque, io mi difendo abbastanza bene, dai. Mi difendo, no, adesso lo Massimiliano, sai cosa faccio? No? Adesso a quel barchino ci attacco la RM Italy, il B300 lo tolgo. Cosa, Cla? E attacco al Dormar l'RM Italy, quello grosso. Attaccali quello già va bene. E quello era più di 200. C'è avuto anche il mio, così ne ha un'altra di controllo in più. Sì, vabbè. Solo che fa, sai perché non uso? Perché fa un casino nero, quando schiaccio la portante entra in funzione con quel cazzo di ventole. Fate un casino di Gesù Grillo. Allora sai cosa ho trovato il sistema? Lo metto dentro il cassetto, che c'è il cassetto sopra sugli alimentatori, lo metto lì dentro e non vado più rumori. Sì. E allora, state dentro in concetta, in chiwi. Però scalda, capito, per quello non lo sto usando. Non mi piace per quello. Sono un casino di Gesù Cristo, fate diretta a Stefano. E così sono quelli, e così sono un'altra bilicura, ma non mi piace di uscire. Oh, quella del video è la vecchia boomerang, è la vecchia antenna, non è quella di adesso, L'avete notato? Quale? Il video che ti ho mandato, c'è la panoramica, poi c'è il vecchio palo con la vecchia antenna, che era una boomerang. Sì, l'ho visto. Non so, lì, quando trasmetteva coso, come si chiama, in quella zona lì, arrivava molto forte a tre parti, è bella aperta. Come si chiama, che è più giù di te, la mia mamma che è morta, fanguffa triste, Gianni Vinci. Quando parlava gufo triste, ogni volta che facevamo, cazzo, mi splatterava Cantuì, allora attaccavo il tiro 9:22 e andava subito a cuccia, capito? E mi sa che devo rifare così, cazzo, metterne uno grosso vendemmiare col baracchino, così state tutti a cuccia e fate da bravi. Ehi, ma non c'entra niente, quando parli sei forte, ma quando ricevi di buone la portante non ascolti, cosa giamba? No, ma cosa che c'entra, mica lo metti per disturbare, non mi capisci tu a me, come facevamo un tempo, no? Quando c'era qualcuno che attaccavi, io farò bravo e ritirati. E allora attacca, attacca, dai, che questo periodo lei ne ha bisogno di soldi. E non faccio più più, lo si hanno messo qui la vacone. Dai Franco. Tu lo sai, Massimiliano, ho successo una volta, proprio battapamme lo guro. Tu immaginate, quando io usavo il DL 922 era una cosa spaventosa. Volavo dentro Sassari con 900, 950, a volte anche un kilowatt, secondo quanto le davo l'ingresso col 440. Ed ero, cazzo, number one, non c'era per nessuno. Sono spariti da Carboante, sono spariti tutti, Daniela, Roberto, Guibato, Sfogliato, tutte le antenne ne hanno bugate. Antonio Reventi oggi bruciato due baracchino sotto gas. E arriva la prima bolletta dell'Enel. Siccome la chiave della cassetta posta ce l'avevo solo io, sto qua tanti anni fa. La cassetta delle poste, la chiave della corda ce l'avevo solo io. Questo miglior agosto delle poste. Minchia cazzo, mi è sceso un raio. 400, ti sto parlando di tanti anni fa, non eravamo neanche io. 426.000 lire. No. Non è possibile, come cazzo faccio? Come cazzo faccio qua un casino adesso? Di solito a me mi arrivava 80.000 lire, 90.000 lire, massimo 120.000 lire, 420.000 lire, come cazzo faccio? Manco a fare la porta, salgo a casa e Anna mi fa, ma lei ne è arrivata? No, non è ancora arrivata, no, e boh, sarò nel ritardo, lo so. Ma sai cosa giuro dove va? No, va a pammi. Pagarla io. Beh, ti è convenuto. Cazzo. Massimiliano, me lo ricorderò per quanto campo. Me lo ricorderò. Dopo un paio di mesi ho preso legnare e l'ho venduto a CH23 di Chiaramonti. Già in vivo e vegeto glielo potete chiedere a chiunque. Io sono vero come me lo doppio. L'ho venduto a lui. E lui che non ne usa di quel lineare, me l'ha comprato proprio per farmi un favore. Lui che non ne usa l'ha versato per comprare una radio. Immagina di lui. L'ho tolto subito a me dai piedi. E mai più avevo letto lineari grossi HF o insomma per così, per il baracchino, mai più. Grazie, veramente con il Garrello, con il Rudi. Ma veramente? Mamma mia Santa! Perché il lineare, cioè per darne 1000 di RF, quanti ne assorbe dalla corrente elettrica? Quanti ne assorbe? 2 kW o di più? 2 kW, sì. Avevo fatto, quando io ho comprato l'amplificatore lineare, la buona è Martino Idini, poverino, che è morto, che allora era coordinatore delle cabine, che abitava lì vicino a Latino, nella Budibuti. Costantino Idini, poverino, ha fatto militare con me, stessa mia età. Morto 3 anni fa, figura di due, a 57 anni morto, un tumore. E avevo fatto l'aumento, quindi avevo la 4 kW e mezzo, capito? Perché 6 kW costava troppo, l'avevo fatto l'aumento di 4 kW e mezzo, perché 3 kW non li teneva, neanche il contatore vecchio. Come accendevo l'amplificatore che andavo a schiacciare la portante e scattava il contatore. Capito? Immagina il trasferimento che aveva quell'amplificatore. 2, 3, 500 Z, due boccioni di. due cosi di bottiglia erano in vetro, una cosa allucinante. Avevo pagato la Mario Lottari quel lineare, per farti capire, 3.600.000 lire. Minchia, quindi quasi 3 kW di assorbimento per 1000 watt di RF, aspetta. In AM però, in AM, in SSB penso che era il migliore in assoluto a quei tempi, adesso vabbè, ce ne sono i migliori. Bell'amplificatore, c'ho anche le foto, guarda, c'ho anche le foto, se riesco a mandarla, perché ce l'ho appesa al muro, con la linea del 940 completa il DL 922, ce l'ho, dietro la porta, una bestia, per carità, siamo aperti. Quanti soldi buttati, poi per venderlo a metà prezzo, vai Massimiliano. Claudio, io sto parlando. parlando di quelli bianchi, qualcuno mi ha fatto abbattimento molto su, 3 miglia erano. Ah, e quelli col carrello, e quelli erano 3 kilowatt. Vabbè, quelli sono amplificatori costruiti, autocostruiti e viaggiano in una certa maniera. Io non ne ho mai avuto uno di quelli lì, assolutamente. Vai Massimiliano, parideci. No, sono qua, ne ho ripreso altri, quindi sono erudito. Ehi. Ma vedi, tu non l'hai ancora provato quella bestia? No, negativo, cosa chiuso in scatola. E quello che usano, quello nero? Sì, quello nero sto usando. Sì, ma l'ho dato la bottezza di ghiaccio, no? E anche tu, Claudio, e quindi c'hanno una valvola solo, così è? Non ho capito, avete parlato in due, la domanda era a me o a Massimiliano? A te era, c'hanno una valvola solo quelli bianchi, così è, di quelle russe. E allora, Giovanni, una cante un buccione di, cante un buccione. Anzi, cante una damigiana. Sì. Guardate un attimo, ho tolto il filtro e quindi anche lo spezzone. Questa è l'antenna diretta. Claudio, guarda bene lo Smitter. Ha guadagnato anche un dB, un infinitesimale, perché così sono 4 watt. Il filtro me ne ruba uno. Vedi un po' se c'è variazione. Portante multa, dico. Tante volte sì che c'è variazione, è come se c'è, superi il 30, superi la linea del 30, c'è il 20, la linea del 30 la superi, sei in mezzo, tra il 30 e il 40, liscio. Una roba drammatica. Guarda che è un bemmi, cioè se usi 4 watt ti ruba 1 watt ed è il 25% di potenza in meno, se invece ne hai, che so, senza filtro 80, col filtro 70, quindi te ne ruba un decimo, è strana un po', non... comunque ti ruba potenza il filtro, sì, ti filtra la mondezza, perché pensa che c'ha 80 dB di attenuazione delle eventuali spurie armoniche sulla banda TV e radio anche. Sicuramente è aumentato anche a Massimiliano senza filtro, no Massimiliano? Sì, no, è quasi a 10. Portante muta, guarda, è prima 9,5. Caspita, porca miseria, se ruba segnale, altro che, poi sai, lì lo spezzone di cavo anche lo fa. Sì, eri 9,5, poco più di 9,5, adesso sei 9,10 pieno. Vediamo Alghero, attenzione Alghero, com'è rispetto a prima liscio con 3 watt, aumentato, solo portante muta, eh? Tu sei aumentato in ricezione, prima eri, cioè sei aumentato circa mezzo Santiago in più, quindi vedi che influisce parecchio, però io per questo vivere preferisco usarlo a priori, tanto a me di arrivare a 9,5, 9,10, importante arrivare a Sassari poi. Va bene dai, vi lascio adesso che faccio roba, mi devo ancora vestire. Bilancio Claudio e sentiamo dopo forse. Ciao a tutti, ciao Massimiliano, Luca, Pomporio, Fabio Massa se c'è ancora, Nicola Alghero, Natalino, Riccardino, chi altri, che più ne ha più ne metta, come dice Rocco Siffredi. Ciao Marco, sentiamo dopo se coincide. Avanti Luca lì. Luca non riprende, vai. Natalia. Io pure ce l'ho, per uscire più basso c'ho il rosmetro attaccato, il filtro, sempre per uscire più basso, però disturbo lo stesso, lo so, c'hanno le antenne marce. No, ma scusa Natalia, un attimino, ma se tu sai di non avere stazionarie, perché tieni il rosmetro fisso? Mica ti ruba segnale, uno spezzone in più, ti mangia un bel segnale. Lo sto facendo apposta per abbassare il segnale. Se no il filtro c'è da attaccare. C'è da attaccare l'antenna diretta e buh. Ma Natali, tu lo senti Alghero, l'amico di Alghero? No, adesso non lo sento. Cioè, fatti il conto, a me arriva a 7,5. L'amico di Alghero, 7,5, e tu Natali non lo senti? Ma è allucinante Mila, Claudio, la differenza che c'è tra me e Natalino. Sì, io sono un po' più in alto, ma grazie a Dio, pare anche strano. Ho l'antenna bassa, non la vuoi comprendere? Cosa vuoi che ti faccia una fotografia e te lo posso vedere che è entrata dalla gabbiuglia. E basta. E non lo sento per quello. Perché c'ho l'antenna bassa. Poi c'ho tutta questa marana attaccata in bari in sacco d'uccio. Natali, vabbè, sarà un'antenna bassa, ma non sei alla, proprio a, a livello stradale, è sempre un'antenna sul tetto. Oh, vabbè. Vabbè, dai, riprendete, ciao a tutti, ciao, a dopo. Ma perché tu ad Alghero non lo senti, Natali? Come mai? Un attimo il break. Oh, allora, Alghero io lo sentivo sempre, Ara non lo intendo. C'ho questo rosmetro attaccato, questo come cavolo si chiama, filtro anti-TVI per abbassare il segnale, che poi mi conviene toglierli perché intanto disturbo lo stesso. Riccardi, aspetta quando ti lanciano il microfono a parlare, se entra qualcuno aspetta, quando ti lanciano saluti, se no si capisce un accidente. Ho capito Natali, mi sembrava che lo sentivi, va bene, avanti Gianni. Ehi, allora, saluto tutti cordialmente, buonasera. Stamattina provo ad attaccare per vedere come uscivo dalla macchina, invece non veda nessuno, non c'era un cane. Se mi facevi un colpo di telefono avremmo fatto le prove. Io ho fatto quello che dovevo fare, poi mi sono tornato a casa ed ero tutta la mattina in radio. Poi vabbè, io sono andato presto perché dovevo andare all'ospedale a farmi fare il piano terapeutico e sono andato molto presto. Se da vorretta i suoi figli mi ha detto no, non stiamo facendo nulla, adesso ascolti dire lo dico al dottore, poi vedrà lui cosa fare. E no, no, ma ci abbiamo l'ordine, vada a chiedere al dottore, anche se il dottore mi ha fatto un buco. Ormai sono sulle stelle e questi infermieri, vabbè, hanno fatto un grande lavoro, stanno continuando a farlo, ma mi pare che si sono attenti troppo di grado. Va bene, va bene. No, beh, se tu mi chiamavi io presto non ero a casa, ma dalle 10:30 in poi ero a casa, dalle 10 in poi, boh, non mi ricordo che sono rientrato. Ero tutta la mattina in radio, capito? Vabbè, quando esci facciamo le prove allora. Avanti Riccardo, cosa sta dicendo a Gianni? Mi chiamava a me, non lo rispondevo, boh. Come? Se mi chiamava lo rispondevo anche io, no? E allora Vanni, se non chiamate al telefono, c'è mio padrino che per far entrare la gente in radio sta tutta la mattina o tutta la sera al telefono. Fate anche voi così, manco balle balle me la futa a me. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Vanni. Ciao Vanni, buonasera, ben entrato e saluto anche a Gianni, là. Avanti, Agiri. Riccardino, cosa stavi dicendo a Gianni, hai visto? Già ho visto, già fatto tutto, già ho già capito. Sì, lo so, l'ho vista. E ma che bella l'altra, però quella l'ho avuta anche io. Bella, però l'altra è più bella, la prima che hai preso. Ok, ma Luca non c'è più. Luca, boh. E tu Massimiliano, il vento ha abbassato, non hai fatto niente? No, negativo. Non ho giocato nulla, no. Stamattina mi ho preparato tutto e l'antenna è pronta, no. La devo solo tarare e portare su. Preparato già tutto il cavo, il PL, è pronta, là. Innestare un tubo con l'altro, mettere due viti, mi ho preso il vulcanizzante, esci da nuova, adesso da provare, da fare, da tarare più che altro, non da... sono sicuro che va bene. Adesso vediamo, sabato magari la metto su, adesso vediamo un po', sicuramente servirà qualche tubo, però devo guardare se ne ho. E io c'ho quello che mi ha detto Gianni, ma è fine però. Non lo so, dai, devo vedere giù, dai, non ho guardato se c'ho qualcosa. Vabbè. Tranquillo Riccardo, vai, non c'è problema. Non ho capito che ti sta chiamando, cioè il babbo ti sta chiamando. Va bene, perché quegli altri che ho non sono telescopici, ma si vedrà come fa, non so, vabbè, fammi sapere. Sul Mansarda già ne ho tubi zingati, però non sono telescopici, sono pezzi di tubo da 2 metri. Là, devo vedere cosa c'ho giù, devo vedere dentro la casetta cosa mi è rimasto di tubi. No, ma non la metto in alto, non mi interessa qua. Tanto c'è già un palo da 2 metri, ce l'ho già agganciato, quindi ne metterò un altro da 2 metri, boh, non la voglio sollevare molto, capito, qua. Non mi interessa, tanto deve rimanere lì attaccata con la radio là, capito. Va bene, dai, vai Vanni, riprendi. Sì, Vanni non ce l'aveva quell'antenna. Non c'avevi la stella tu prima della Mantova 1, Vanni. Vanni. Allora, riprendi il doppio. Ehi, avanti a mettermi in più dell'altro, se la stai sostituendo, Massimiliano. E cosa, già? La stai mettendo in più dell'altra o la stai sostituendo? No, ne sto mettendo un'altra di antenna. Ah, ecco. Per ricevere basta. Se voglio trasmettere posso anche trasmettere, non c'è problema. È un Assirio 2008, quella 8 radiali, capito? K. Andare. È lunga 6 metri e 10. Era un pezzo di garraggio, se la vedevi era proprio da buttare, tutti i radiali spezzati, capito? Li ho tutti trappanati, rifatti al nuovo, là. Tutta la carica del rame era tutta verde completamente, sembrava c'era il muschio sopra, tutta pulita, tutta ordinata, rifatti tutti i radiali belli tutti dritti, rimessi tutti in ordine, già messi il vulcanizzante dove agganciano, pronto a montare là. E magari li avessi sostituiti? No, li ho messo i sui, però li ho accorciati di 13 cm. Non è che adesso dà problemi il fatto che l'abbia accorciato? No, non ne dà problemi. Sai perché non ne dà problemi, ho già. Sai come si... quella molla non ne ha, capito, come la Mantova. Sai da dove si regola stazionare quella lì? C'ha una brugola come quelle delle macchine, come le antenne delle macchine. Capito, molli la brugola e sollevi lo stilo e lo abbassi. Ah, ecco, ho capito. Infatti il rompimento di scatola è quello di questa antenna. Infatti me la devo operare quando è in terra, qua, là, e poi portarla su. E anche con 2 portatili, uno sta su e l'altro giù, ti danno una mano. E come ti fa arrivi a 6 metri due, rigori cara, ti dà in punta? Alla cimbassa prima, poi la alti, la si veniva naturalmente. Non si può fare, cazzo, la devi mettere tutta tirata fuori già, come fai? Beh, casino, Perché dove c'era questa brugola? Non c'era la base, scusa. No, in punta proprio. Figa, allora, pensavo che la messa una base come le antenne della macchina. Mia, Magari, invece no. Sai che cos'è? Quello lì tu devi mettere, la devo mettere a 6 metri e 10, come mi dice le istruzioni, là. 6 metri e 10 e poi la provi, con rosmetro e tutto. Se va bene la lascio così, se no la devi riscendere dal palo, la devi coricare in orizzontale e giostrare con questo coso, rimetterla dritta, capito? Un casino è attalarla. Poi tarata in terra non è come tarata sul tetto, è una taratura diversa, No, si fa la misura standard, come dice il manuale, la misura standard, ok, e si monta e si piazza. Se poi vedi che sono più alte o più basse, allora regoli, la riabbassi e regoli appena appena. Ma è facile, no, non è, io l'avevo tarata una volta solo, Massimiliano, così come stai dicendo tu. Una volta solo avevo fatto la misura standard, poi era appena appena, ma anziché avere per dire 1,1, 1,2, dai, modulati, avevo 1,4. Allora ho abbassato appena appena, l'ho tirata su ed era 1,2 fissa e l'ho lasciata fissa così. Dove c'è quel piolino? Ho messo il vulcanizzante per non muoversi il piolino, no? Per non stare dove c'è la vite praticamente, la brugoletta. L'ho vulcanizzata, l'ho lasciata così, è durata sempre. Poi quando sono andato via a Pasqua l'ho tolta e ho messo la Mantova 1 nuova, e quella io l'ho regalata a Mario Babbo Natale. Deve essere che ce l'ha ancora però, perché se l'aveva piazzata alla terroce, poi non so se l'ha tolta. Come la mia, te lo ricordi come ho fatto io? Io la prima 1,1, boh, ho fatto. Sì, perché c'è la misura standard, hai capito? Come facciamo più o meno con la spirale, no? Andiamo quasi tutti bene, la metti a appena appena meno di 7, le catenate sono a posto, e non la tocchi, però il problema è che se la devi appena appena muovere ci arrivi perché nella base, ma io sono in punta, appena che si antenna arrivi in piazza, beh, tutta viscia, perfetta, no? Poi cosa fai? Prendi l'autoscala e regoli le stazionarie. Allora sì. Sì, quando avevo, ma io l'autoscala non è, e quindi me la regolo su un palo, ho messo qua giù vicino alla borda di Nucci. Cerco di pararla il meglio possibile, se non ce n'è uno, uno ce n'è uno, è meglio ancora. E poi la porto su. Se non va bene, va bene, se no la riscendo e la taro come dico io, l'antenna per lavorare come dico io, non come dice lì. Cazzo Gianni, tu sei veloce che... Pardon. L'antenna deve lavorare come dico io, non come dice lì, la devo tarare, che quella antenna non deve avere uno di stazionario, deve avere. Ehi, a Massimiliano, te lo sto dicendo, si può fare, devi già stare come hai detto tu, capito? Fai prima la misura standard e poi la prove, può darsi che sia quasi irregolare. Se devi appena appena ritoccare, la riabbassi, la ritocchi e poi la rimetti. Io avevo fatto così. Una o due volte mi sembra l'ho abbassata, adesso non mi ricordo. Sono passati tanti anni, però è un'antenna che funziona molto bene, anche la mia era così. Io la chiamavo la Stellar e poi quella 16 radiale era la Super Stellar della Siria. La sigla non me la ricordo, io la chiamavo così, 8 radiali. E mi erano 8 radiali in alluminio da... adesso non mi ricordo, se erano 1,30 m, 1 m, boh, una cosa del genere. Scusate, tu devi fare il palo a cerniera, come ce l'avevo io. Io avevo il palo a cerniera e abbassavo il palo con tutta l'antenna, regolavo e poi la portavo su di nuovo. Vabbè, io lascio lo spazio qua, no? Io mi avevo a modificare il palo, ma vedo come mi scende giù. Già è una cosa buona quella, capito? È anche facile fare una cerniera, una piattina bucata da una parte all'altra e via. E vabbè, ma comunque già la metto su, là, già la taro, non c'è problema. Certo, non so che ce la fai lo stesso, ma deve essere un lavoro più agevolato. E poi io col palo ce l'ho sempre. Avevo usato una chiave fissa in acciaio, avevo usato e l'avevo saldato due perni dentro il tubo, nello spessore e poi nel tubo. E poi quando abbassavo rimaneva completamente orizzontale. Io ci lavoravo tranquillamente sul tetto, poi la tiravo su e provavo di nuovo le stazionali. E andava bene, la lasciavo chiaro. E l'ho fatta in un attimo così. È abbastanza semplice, no? Non ci vuole niente, guarda. Lo so, Gio. Lo so, non ci vuole niente a farlo. E anche in fretta si fa a fare una cerniera, non c'è problema. E vabbè, va. Vediamo adesso come si comporta prima, vediamo, magari alla prima riesco a avere stazionari e niente, e la porto direttamente su. Va. Avanti Angeli, che sei un po' in parcheggio, vai. Ci metto un palo da 2 metri, io per stendere la roba c'ho un altro palo da 2 pollici buttato lì in terra, messo con un plinto, no? E poi attaccato il cavo per stendere la roba, mi aggancio un palo da 2 o 3 metri, ci inserisco dentro quello lì e la provo, capito? Poi cosa faccio? Se non va bene la tolgo fuori, abbasso l'antenna, è leggera, capito? Si fa in fretta a tararla. Abbiamo già fatto anche quello da poco, mi, Claudio già l'ha visto dove mi arrampico io, sono tipo scimmia. Massimiliano, da retta a Marco, tu pigli l'umetro e misuri 6 metri di magazzino e vedrai che l'antenna è a posto. Se vedo che si arrampica questa scimmia, questo non è un cristiano, è una scimmia, ragazzi. Lascia perdere. Con la scala, mette la scala appoggiata al tubo dell'antenna e si arrampica sino in punta. La spirale non la abbiamo cambiata così la prima volta. Poi finalmente ne è l'ascesa col cognato. Io non c'ero. Ma è una cosa allucinante, lascia perdere. Ma tu stai parlando di pali, i pali quelli grandi dell'Enel, ho capito quello che c'è tu, ma lui non c'ha il palo, non c'ha il palo dell'Enel, lui c'ha un tubo come c'ho io, e appoggia la scala a quel tubo e poi si arrampica in punta. Ah boh, non so, il palo maestro è un pollice e mezzo, va. E poi quello di dentro un pollice. Non so leggo la scala, io non leggo la scala, appoggio via. Allora, figlielo Massimiliano. Sono 4 metri più 5, capito? Ma devo per forza mettere i tiranti, se no piega il palo. Natalia, veramente mi sono appiccato in casa d'uia, mamma mia come sto. Comunque fai 6 metri e 10 e l'antenna è a posto, per uso così senti io. Io faccio così, i 6 metri li prendo dall'inizio della bobina, giusto? O proprio dalla base? No, dall'inizio della bobina lo devi pigliare. 6 metri e 10, fallo, dato che hai tagliato i radiali. Massimo 6 metri e 15 e l'antenna è a posto. E non è a stazionaria, è scommessa. Io faccio così, no? Vai doppio ru, facciamo girare un po', se no casino l'antenna, vai doppio. Ehi, allora così la piacciamo noi e non se ne parla più Massimiliano, fuori di parlare ci piazza da sola. vabbè, ma poi tu c'hai il tetto a tegole, non è come avere un tetto atterrato, viene anche più male a lavorare lì. Infatti ne facendo poco i deuri, ordinando un motocarro i deuri, o vabbè che ti faccia un gabbo. Cosa succede? Perché poi come prendo l'umidità in campagna e cose, basta che sia un po' umile, come metti il piede, tac, si fa. Come poi la scala anche, poi sali su il peso e la scala le spacca, capito? Ma lui già le cambia, non c'è problema. Ciao Giulio, anche buonasera. Beh sì, infatti te lo stavo per dire, visto che hai accorciato i radiali, recupera, tiralo appena appena più su di qualche centimetro e vedi che non è stazionario. Giulio, lo riprende, vai Natali, riprende. Te lo stavo dicendo io, fai 6 metri e 15 con la scusa che hai tagliato i radiali, recuperi un po' sullo stilo centrale quello per tarare, no? Lo tiri appena appena più su e sono sicuro che stazionaria non ne hai. Te lo ricordi che la mia è lo stesso, l'antenna. L'abbiamo l'ho tirato su, ha G-Swing e si era già tata, stazionaria non ha. Sì, quella che c'è adesso non ne ha lo stesso, no? Quella. Questa qui l'antenna è come quella lì, praticamente c'ha lo stilo per le stazionarie, ce l'ha in punta. Tu ricordi Massimiliano che l'abbiamo tarata giù, lo stub l'abbiamo tirato giù, poi stretto e è tirata sull'antenna. Io adesso mi ricordo adesso. Il funzionamento è quello, uguale alla stella. Anche perché quella lo stesso la fa la Sirio, mi pare. Mi pare di sì. Energy, la Energy si chiama la mia. Ma l'abbiamo fatto in orizzontale, quello lì sinistra, vi ho chiamato due o tre volte l'antenna, si vuoi vedere come si erano i buci. Stazionario non ce ne serve, non ne segna, mi sa, almeno uno, quanto ne hai? Uno, se te lo sto dicendo, che non ne ha. Prima è andata bene e poi cazzo se ne avevo parato due o tre volte l'antenna e mi gucciava. Ma io la signora Faratura Sant'Enno. Ma ci costava Sant'Antonio mio. Ma poi ma ci vediamo se è peccato da fuori in battaccaro di Dante, se no domani vi riuscite in TV. Come avete fatto madonna, a sollevare il palo e tutto? Come cazzo avete fatto? Lo abbiamo fatto, abbiamo assemblato a terra con palo e tutto, con palo e tutto. Poi io ero nella, perché dovevo centrare la staffa che c'è Natalino nella finestra, io sono rimasto nella finestra di Natalino. Massimiliano è andato nella finestra dell'altro per mantenere la ferma, per metterli in tirante, perché c'è un tirante che mantiene l'ultimo pezzo attaccato a un occhiello della finestra di quello di su, e gli altri stavano spingendo laggiù, capito? con la corda stavamo tirando. Una volta che l'abbiamo tirata su dritta in verticale, io ho innestato, perché ho portato un tubo più grosso che innestasse nella staffa, capito? In quelle staffe di parabola, e è innestata lì dentro. E poi è agganciata, Massimiliano l'ha agganciata all'occhiello. È un lavoro che non è facile fare quello, non piace a nevozia nessuno, però è stata assemblata tutta a terra, tutta. Eia. Poi gli ho controllato le stazionarie, da poco, praticamente ciò. Sul 91, sul 92, che sarebbe 27.991, 995, scusa. Allora, 1.5, massimo 1.6, a 1.6 con qualche watt in più, no? Poi sull'80 sotto sarebbe 26.065, massimo 1.5, 1.4, massimo 1.5. Bene o male è abbastanza centrata. Ho seguito le istruzioni del foglio che ti dà la casa madre, capito? Rotterata sul canale 19 o 20 che sia, prima era spostata un po' più in basso di centratura, adesso col tempo si è centrata meglio, quindi sui canali normali c'hai 1,1, 1,15 dai, 1,2 quando attacchi. Sì, anche con le natalina abbiamo fatto così a terra, lo stub è fatto così a occhio, a misura, insomma standard, e l'abbiamo messa su, questa stazione ne ha. Però Massimiliano, che ha accorciato un po' i radiali, se la mette a 6,15 m, 6,13 m va bene, non c'è problema. Avanti Angeli. Cucicu! Dilli la radio Massimiliano, stamattina il melegato che radio aveva, anche il respiro si sentiva. Permesso? Stanno parlando. Aspetta, guarda il telefono. Ehi, Angeli, va bene. Chi è che voleva entrare sotto Angelino? Avanti. Ehi, Claudio, io sogno. Buonasera, buonasera. No, scusate perché mi incazzo. Parlate uno alla volta. Riccardino, aspetta quando ti rilanciano il microfono. Un minuto. Chi è che stava parlando sotto Angelino? Chi sei? Catrame qua, il Catrame, buonasera a tutti. Ciao Lucia, buonasera, ben ascoltato. Stava parlando Alghero e non ha già compreso un accidente. Ciao, buonasera, ben ascoltato Lucia. Ehi, ehi, dai, riprendetevela pure, sono in ascolto. Gappa, gappa. Giulio, cosa stavi dicendo? Ma no, mi ha già sentito Massimiliano. A guardare il telefono, gli ho mandato una fotografia del tubo sulla cerniera. Le ho scattato le foto e gliel'ho mandato. Gappa, gappa, sì, quel tubo lì c'era anche Antonio Grode. La Budapest ce l'ha così, la bassa così, la mantova lui, con la corda, la bassa e poi la tira su. Vabbè, Riccardo riprendi, sei rientrato? Riccardo, adesso che ti rilanciano riprendi? Gianni riprendi? Sì, magari si è allontanato, ogni tanto lo chiamo. Cavolo, mi sa che mi faccio un giro in macchina e guardo come va questa antennina. Mi sta imponendo a provarla. Ma l'altro giorno stava andando bene, è vero? Ehi, ma che antenina hai preso? Quella che avevi autocostruito tu hai piazzato? No, c'è quella del portatile, brutto. Quella del portatile con la base magnetica, non ne ho comprato. Le ho ordinato, a Marcia gli ho ordinato la turbo, la mini turbo. Però non so se la piazzo, mi stanno venendo le cose di non piazzarle, perché c'è poca gente e la mattina non venisci più. Sono entrato stamattina a 2 ore, gittetti, poi sono andato e mi sono fatto la spesa da LED, ma lo sai che si risparmia un po' di più di Eurospin da LED? Da LED? Sì, anche io non so mica ancora, io vado spesso da LED. Infatti fatto ci sono cose molto sfiziose. Sì, sì, si risparmia tantissimo, Gianni. Se ti va, facci, perché si risparmia. Certo, stamattina ho comprato un bel po' di roba. Se l'avessi comprata vicino a casa, al minimo me la dici di Zetuino. Mi è uscito 35 euro il conto e ho preso un sacco di roba. Ho preso roba da friggere, cosa ti posso dire, soffici di pesce, patate, di quelle al coso, di quelle arrosto. Insomma, un po' di tutto là, per fare arrosto, con le piccoline rotonde. Insomma, ho preso un po' di tutto. E 3 o 4 borse ho fatto. Ci sono andato 30 di quello, mi sono arrabbiato, ho detto, ma so che è sbagliato, ho guardato il conto e invece era così. No, già così, vai tranquillo. Ok, vediamo se è rientrato Riccardo. Sì, l'ho vista la foto, l'ho vista, mi piace, è bella, bella radio, però non so se mi hai sentito poco fa, l'altra che usavi, l'altra, la prima, esce più forte di quella. Oh, fermo. Vero, ma sì, lo so. L'altra più forte, ma il mic gain tutto al massimo ce l'ha. Che stava fischiando sotto il capo. No, già ne c'è lui. Hai visto facendo via? Sì, giù, ho visto, sì. Sì, un buon lavoro questo, va bene. E tu me fa completamente orizzontale, Non, cioè, naturalmente il palo poi era telescopico, no? Abbassavo il palo telescopico, poi piegavo il tubo. E io regolavo la stazionaria e poi tiravo su di nuovo. Ma con una facilità estrema, Vabbè, questo è un buon lavoro, Va bene. Quindi già ti hai preso la Turbo 2001? La mini Turbo? Che l'ho ordinata, ma ha detto che non sa però se è aperto, se non è aperto. Mi sa che non ha gana di ordinarla. Te l'ho detto. Se me la ordinava, mi ha detto di sì. Però mi ha detto, non so se sono aperte le fabbriche adesso, tutto un casino. E vabbè, adesso appena me la metterò posticcia, non la metto fissa. Antenna brutta, mamma mia. No, boh, io ce l'ho avuta, no, non mi piace assai, no. Non arrivi da Ogegibi. Già, ciao, come me non l'hai ordinata da internet, ti arrivava in 3 giorni. 2001. Vediata. Io ho fatto le prove dal quadrato, prima messa una e poi l'altra, dallo stesso punto, erano 2 segnali in mezzo. Ciao Gianni, ti volevo chiedere, come mai non l'hai ordinata da internet, ti sarebbe arrivata in 2 o 3 giorni? Perché non c'ho le PayPal e le PostPay, e tutti quanti vogliono farlo con PostPay, con PayPal, è una rottura di balle, e allora me la sono ordinata lì. Puoi fare con bonifico anche, Ecco, per un controllo, grazie. Avanti. Capparano. Controllo radio, per cortesia. La radio è buona, forte e bella. Ah, non mi dire che ho indovinato il microfono, indovinato, questa qui è bella forte, potente. Bene, allora sono contento, dai. La radio non distorce, vero? No, negativo, non ho capito chi sei, però, doppio run da questa parte. Anzi Gianni, se non mi hai riconosciuto vuol dire che la radio non va bene. Ma che sei tipo? Buonasera. No, la modulazione è diversa completamente. Si conferma, manco io ti avevo riconosciuto. Sei 9.10, compichi a 9.15. Ciao Claudio, ciao. Questo è il microfono che mi ha dato Tommy, quello standard dynamic, ti ricordi quello nero? Ma io già lo so che quello andava bene, tu l'hai provato. volte su altri baracchini. Quello c'è una capsula micidiale, fortissima la radio. Sembra che stia usando un microfono preamplificato. Allora, sto usando il mio President Lincoln, che è abbinato con questo microfono, ma è l'unico che ho abbinato con questo, perché gli attacchi sono del Lincoln. Ho anche il più 4 da fare, ma non ho voglia di fare. E quindi la radio va bene? Va bene, 5 perfetta, fortissima come radio. Presso un microfono normale, io l'avevo provato però con lo standard, quello è il microfono originale della radio che ho io.